Packers. We watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray. Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 22. Io sono il Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt. Ciao Sal, ci siamo. Ci siamo, cazzo. Si può dire? No, non si può dire. Ma sì, tanto. Allora, finalmente back to football con l'hashtag, se volete. E domani i nostri eroi giocano in una partita che non conta niente, in realtà. La prima di pre-season contro gli amati odiati, più che altro odiati, New England Patriots, sì. E, all'una e mezza inizia, mi pare, Marinotte. Ora italiana 1:30, 7:30 ora di Foxborough e 6:30 ora di Green Bay. Ok. Poi, non mi è piaciuto il tuo hashtag back to football, pensavo che l'hashtag fosse un'altra, ma non lo dico io. Lo diciamo alla fine. Vabbè. Allora, che dici? Allora, io sarei contentissimo con una sconfitta di 40-0 e nessun infortunio. Sì, ma sei sicuro che dopo non sia stagione finita se perdiamo 40-0? No, basta che non ci siano infortuni. No, scherzi a parte, non sarà quello sicuramente il risultato finale, però... Oddio, a differenza dell'anno scorso, sembrerebbe che Rodgers un drive lo dovrebbe giocarlo. Ci sta anche, secondo me, anche un drive mi pare anche giusto fargli prendere un po' di ritmo, magari. Non di più, secondo me. Sì, sempre all'insegna di quella cosa dell'iniziare più veloce, start fast. Sì, esatto. Ci può stare. Esatto, non so se giocherà lì, sì. Però McCarthy ha detto che qualsiasi persona, qualsiasi giocatore che va in monte in aereo giocherà la partita, quindi fa giocare. Speriamo che resti a casa, dai. Speriamo che resti a casa, esatto, o che lancino sempre, che non corrano mai, ecco, quello non lo trovo un po' così, tipo, o giocatori vecchi, veterani, tipo Peppers, vuol dire, non vedo che cosa ci sia da... Non c'è motivo di rischiarlo, insomma. Speriamo di avere qualche bella sorpresa da quelli giovani, dai giovincelli. Sì, finalmente possiamo vedere all'opera, anziché leggere solo delle loro gesta su Twitter, esatto. I giovani, i nuovi. Io sono particolarmente curioso di vedere Blanchard, sinceramente. Mi è rimasto lo sfizio dalla Family Night, insomma, volevo vedere... La pubblicità non te l'ha mai fatto vedere, è vero. Ogni volta che c'era lui in campo, un po' pubblicità. Sono curioso di vedere i giovani ricevitori, soprattutto questo fenomeno di Montgomery, perché finora ho solo descritto, leggendo le descrizioni, le sue ricezioni della Madonna, però esatto. Chi l'ha mai visto? Che ieri ci ha fatto spaventare, però ieri. Sì, no, l'altro ieri penso che fosse. L'altro ieri. Ah, ok, l'altro ieri, sì, leggo, detto, tag Montgomery down. Sì. Invece aveva solamente preso una botta sulle palle, penso che avesse preso. Ah, meglio così. Sì, allora, guardando tra attacco e difesa, posto che io spero davvero che i titolari giochino il meno possibile, sempre perché la sfiga è dietro l'angolo, insomma, lo sappiamo benissimo, e lo sanno benissimo anche quelli degli Steelers, che su una azione inutile, insomma, hanno perso il loro kicker per tutto. Sì, però lì, più che sfiga, forse... po' bamboccione lui che è andato a placcare qualcuno, magari. Non gli sembrava vero di poter fare un placcaggio. No, infatti, ma poteva continuare a rimanere col dubbio, magari. Poveraccio. Sì, infatti. Allora, sarebbe carino vedere delle prestazioni interessanti da parte dei tight end in attacco, per quanto mi riguarda, perché sono un po' visti come il punto debole di un attacco altrimenti perfetto. Per esempio, ultimamente, tra ieri e l'altro ieri, si sono un po' ringalluzziti i giovani tight end undrafted che finora non si erano fatti più di tanto vedere, come Spears, Henry, che sta giocando con un tutore alla mano ma fa ricezione ugualmente, alti e bassi per Beckman. Sarebbe bello appunto vedere che fanno qualcosa di buono in campo quando la partita, insomma, è una partita vera. No, beh, io sono più che altro curioso di vedere la battaglia per il terzo spot di running back, perché non penso che Starks verrà tagliato comunque, quindi sarò curioso di vedere finalmente, più che ragionile, Alonso Harris e John Crockett. Mi va a dire quante portate daranno a John Crockett, visto che è appena tornato. E sarà simpatico vedere se Scott Olsen sarà è migliorato nell'ultimo anno, come dicono. Vabbè, gli altri due, Brett Underly, magari Matt Blanchard, adesso giocheranno il terzo spot, ma magari una parte dei Jets gli arriverà, magari, non lo so, torniamo dopo magari. Anche sull'offensive line, perché ieri McCarthy ha detto delle parole ha speso delle parole importanti, dicendo che è comunque anche la seconda squadra, una squadra molto molto buona, sembrerebbe. Quindi se magari vediamo se in questa pre-season non vedremo le solite partite di pre-season di Packers degli anni scorsi, dove praticamente i secondi, terzi team praticamente erano massacrati dalle altre squadre. Ecco, tornando alla difesa, sì, mi piacerebbe vedere qualcosa dai defensive back, questo fenomenale Gunter che non abbiamo mai visto, ok? Quindi vediamo se è veramente così forte. I due rookie, anche se non sappiamo se Randall giocherà, visto che ieri non si è allenato, e magari qualcosa da Thornton, da Ringo, da qualcuno della defensive line, visto che lo spazio per mettersi in mostra ci sarà nelle prime 2-3 partite, quindi magari speriamo che emerga qualcosa di interessante. Per quanto riguarda gli inside linebacker, magari vediamo questo Jack Ryan e questo Nate Palmer, vediamo cosa. Sì, per quanto mi riguarda, appunto, infatti la preoccupazione principale, lo sai benissimo perché insomma abbiamo detto un sacco di volte, è la linea difensiva, ma in particolare proprio tutto il front seven, perché è lì che dobbiamo, secondo me, migliorare significativamente rispetto all'anno scorso. Nel senso, magari verrò smentito clamorosamente, ma i defensive back mi lasciano abbastanza tranquillo per quanto visto finora. Sì, sembrava fosse la posizione di debole, invece sembra sia quella di forza alla fin fine, quindi invece sembra ci sia una bella profondità nel ruolo, cosa che non avevamo da altre parti, per assurdo. Sì, sarebbe bello vedere emergere qualcuno di quelli insomma di cui non si parla mai sulla linea difensiva, per esempio questo Bruce Gaston si chiama. Sì, Mike Pennell, te lo ripeto, Mike Pennell. Chissà, insomma, l'anno scorso non mi ricordo che partita fosse, sinceramente, il coming out party di Jaron Elliott con 3 sack e 3 azioni consecutive. Non me la ricordo, quella è stata abbastanza clamorosa. Per cui sì, mi piacerebbe, che poi alla fine in realtà non è che abbia portato successi per lui anche in regular season, però ha fatto la squadra, insomma, ha dimostrato sì, di poter dare qualcosina, sta dando qualcosa. Dovrebbe farla anche, team. Esatto, volevo dirlo io, infatti, come special team se ne parla abbastanza bene. Sappiamo che è una posizione che per noi è importante, perché special team facciamo abbastanza schifo, facciamo. Quindi... Comunque mi ha fatto morire da ridere ieri leggere il fatto che abbiano per la prima volta provato gli onside kick e abbiano sostituito quel giocatore lì con il giocatore che a detta di tutti è il migliore in mani della squadra, cioè Richard Rodgers. La serie non vogliamo avere più rogne da questo punto di vista. Vabbè, vi ridiamoci su, voilà. Per quanto quella fosse comunque una posizione in cui si doveva bloccare e non prendere la palla, comunque questa è un'altra storia. Esatto. Allora, per gli special team sì. dimmi. No, no, voglio dire, sì, in realtà novità grosse sulla squadra non è che ce ne siano tantissime. Sappiamo che è tornato Matthews ad allenarsi, però è uscito McDaniels, è uscito, quindi però non penso sia niente di grave, sinceramente. Quindi su grosse news sulla squadra non ce ne sono, sinceramente. Vediamo domani cosa succede, magari vediamo. Sì, era diventata abbastanza ridicola la situazione degli outside linebacker, perché erano rimasti in 4 sì, ad allenarsi ed erano 5 fuori, e sono tornati quasi tutti tranne Perry, e ieri invece sono stati fuori 3 defensive back. Per cui defensive line? Vero, sì, perché è stato fuori Randall, è stato fuori Ty Glover, Glover Wright e Richardson. Sì, esatto, sì, si sta andando al cambio, però sì, non sembrerebbe niente di grave per nessuno. L'infortunio è quello più grave, che poi non è neanche grave, sì, però magari che deve essere più preoccupazione è quello di Brad Harris, sembra che non è più tornato, e là ci saranno delle, non lo so, non so come andrà a finire. Sì, tra l'altro ieri è stato tagliato uno dei ricevitori che finora non si era ancora allenato, Ricky Collins. Dispiace, perché insomma si diceva qualcosa di buono di lui prima dell'inizio del training camp, non ha mai avuto modo di dimostrare che quanto si diceva fosse giusto o sbagliato. E il roster adesso è 87, io fossi in Ted uno sguardo a qualche ciccione così giusto per far numero ce lo butterei, non so te. Beh, io ciccioni non ce ne sono mai abbastanza, secondo me. Però vabbè, intanto c'è spazio, poi avanti con i tagli ce ne saranno magari qualcuno di più appetibile sicuramente. Tra l'altro, allora, le indicazioni che arrivano dal training camp dopo 10 allenamenti pubblici, perché si sono allenati anche oggi ma a noi non è dato sapere cosa sia successo, e cominciano ad essere abbastanza sempre quelle. Tra attacco, difesa e special team sappiamo che Montgomery è bravo, sappiamo che Tolzien è migliorato tantissimo rispetto a quando 2 anni fa ha fatto abbastanza schifo chiamato in causa e l'anno scorso gli è stato preferito Flynn. Sappiamo che tra gli outside linebacker Molumba sta facendo un gran training camp, sappiamo che Palmer è in vantaggio per lo spot di vice Matthews, possiamo chiamarlo. Sappiamo che i defensive back si stanno comportando bene, per cui alla fine le indicazioni sono quelle. E per quanto riguarda gli special team di cui parlavamo prima, lasciando stare gli onside kick, i ritornatori sembrano essere per i punt Hyde, per i kick return Montgomery. Quindi alla fine le indicazioni cominciano ad arrivare. È sempre troppo presto perché comunque ancora devono giocare partite, però più o meno... Tornando 21 dei 22 di titolare l'anno scorso, cioè vedere... notizie clamorose non è che se ne aspettavano, voglio dire, quindi a differenza di altre squadre, voglio dire, è abbastanza stabilizzata la situazione per quanto riguarda quella di Packers, quindi siamo abbastanza fortunati. Da un certo punto di vista magari è noioso il fatto del training camp perché magari ci sono magari meno argomenti di cui trattare, ecco, però meglio così, vuol dire che abbiamo meno problemi da affrontare anche, ecco. No, domani prima di pre-season contro i Patriots che sappiamo perderanno Tom Brady per le prime 4 partite, a meno lo che sappiamo, sorprese che arriveranno, che, sorprese che arriveranno oggi. Vabbè, oltre a, io davo uno sguardo al roster dei Patriots sinceramente oggi, tanto per sapere contro chi giochiamo. Beh, oltre a quello hanno perso tantissimo, insomma, perché, oltre hanno perso Vince Wilfork, ok, hanno perso i 2 cornerback titolari, di cui Brandon Browner, che magari non era sto granché, però magari era un ottimo numero 2, ecco. Mm-hmm. Hanno perso Darrell Revis, hanno perso quello che forse è stato l'MVP dell'ultimo Super Bowl, Shane Vereen. Sì. Quindi è vero che hanno firmato qualcuno di interessante, hanno firmato Scott Chandler, l'ex tight end di Buffalo, hanno firmato Jabel Sherd, mi pare che si chiama il linebacker, arrivato da Cleveland, che non è male. Avevano firmato Matt Flynn, che hanno tagliato ieri, o l'altro ieri. Sì, tra l'altro pare che vogliano rifirmarlo dopo, infatti qualcuno ironizzava, mi pare fosse John Reor su Twitter, diceva, beh ma quindi i Jets quando lo firmano Flynn? Anche solo per fare il dispetto ai Patriots non sarebbe male. Sì, quindi cioè, i Patriots sembrerebbero aver perso abbastanza, sicuramente. Non hanno un attacco, quest'anno la prima scelta è stato un defensive tackle, Malcolm Brown, che, mm-hmm. che già in qualcuno dava ai Packers, acquistava i Packers, che poi hanno scelto diversamente, però sappiamo anche che il defensive tackle sicuramente è un ruolo dove non difficilmente al primo anno riesce a mostrare qualcosa di interessante. Mm-hmm. Boh, oddio, la squadra sicuramente è buona, però... vediamo cosa succede domani, però in ottica stagione regolare non lo so, non saprei dire. Molto dipenderà dalle prime partite senza Brady, può essere il record. E la conference io vedo abbastanza cresciuti un po' tutti, anche i Jets che ieri hanno avuto una situazione un po' paradossale e che Salvatore ringrazia perché maledetti. In questo modo gli ha fatto vedere l'evento di Packers che ieri nel fernetto lo doveva mostrare. Ieri me l'ho piazzato davanti alla TV dalle 18:30, ho detto adesso mi guardo l'allenamento dei cazzo di Packers, niente, breaking news, e hanno parlato per 2 ore continuativamente di questa cosa qua, cioè di Geno Smith a cui è stata spaccata la mascella. Da il sesto giro di quest'anno, un linebacker impronunciabile, perché io non so come pronunciarlo, però che è stato tagliato giustamente, però anche giustamente sembrava non avesse tutti i torti, perché sembrerebbe che Geno Smith gli dovesse dei soldi, sembrerebbe $600, però cazzo, cioè lui è un sesto giro appena firmato, quindi non penso avesse i miliardi. No, penso comunque... fosse sesto giro 2014. Ah, 2014, ok, sì, lo vuoi dire, ma boh, vabbè, contenti loro, vabbè, però cioè, non aveva neanche tutti i torti, secondo me, mai servire questi 100 dollari, che ne so. Ma che poi probabilmente in realtà ha fatto un gran favore ai Jets buttando fuori Smith per 6-10 settimane, perché sai, un sacco di volte beh sì, c'è cioè, stata fatta della facile ironia, diciamo, però cioè, magari non lo so, cioè, Gino Smith è l'anno del va la spacca, sinceramente, quindi l'ha spaccata la mascella, però per cui... l'ha spaccata, che cosa rimangono con Ryan Fitzpatrick, che sappiamo che è un numero 2 alla fin fine, non è un numero 1 sicuramente. Ok, e hanno che hanno questo Bryce Petty, che se ne hanno parlato in ottica per il draft anche per i Packers, che però sembrerebbe ancora abbastanza lontano dall'essere un quarterback NFL, comunque deve essere costruito, che deve essere comunque migliorato, quindi sì, vabbè, ok, hanno Fitzpatrick, vediamo cosa faranno. Sì, fa veramente ridere una situazione del genere, penso che ne abbiano parlato anche a Green and Gold Today, oggi mi pareva di aver visto, anche se non ho ascoltato. Hanno parlato anche sul giornale Rosa, se ti interessa. Ah sì, addirittura? Sì, addirittura sul giornale, ovviamente sono notizie che del football italiano, quando la NFL fanno notizie anche in Italia, queste cose qui. Ovviamente. Ovvio, è la solita onestà intellettuale dei giornalisti sportivi italiani. Perché noi ne abbiamo da insegnare agli altri. Beh, quindi, Salvatore, domani prima partita di pre-season, finalmente, possiamo dire finalmente, ovviamente. Si torna al football giocato, ovviamente non dobbiamo guardare vecchie partite tipo quella con Seattle e capire cosa è andato sbagliato. Ok, vedremo giocare con Joe Rossi contro Mario Green, però vabbè, comunque è football, quindi cosa ti aspetti da qui? Cosa ti aspetti questa prima giornata di pre-season dai Packers e in generale? Vuoi un pronostico? No, prima giornata di pre-season, solo questo ti aspetto di pronostico. Insomma, mi aspetto che tornino a casa tutti sani, punto. Lo spero. I nostri, sì. Okay. I loro, che se ne frega. No, vabbè, alla fine... Anche i loro, dai, è brutto, impreciso. Sì, è vero, sì, impreciso non ci sta, poi, vuol dire. Poi il fortuno è comunque brutto. E poi, non so, magari, che ne so, rompono l'unghia a Tom Brady, sai come si lamenta, cioè, no? Perde lo sponsor con la Maybelline, cose del genere, quindi... No, non lo so, però dai, io sono contento. Ho un unico problema, che non so però quando guardare le partite, perché... con un bimbo in casa che sta facendo il capriccioso sarà un po' un problema, e giustamente una moglie che mi insulterà se comincio a guardare le terze linee di Cardinals contro le seconde dei Kansas City, magari anche ha ragione, magari, però magari fino all'anno scorso qualcosa riuscivo a guardare, anche perché in ottica fantasy football cercavo di capire chi prendere, poi alla fine faccio schifo come sempre. Ecco, a proposito, se per caso Bolcato ci ascolta, quindi sto draft così, tutto qua, questo qui è un piccolo inciso per Bolcato. Vabbè, ma è anche nostro che facciamo Bolcato commission, insomma, ognuno ha anche il commissioner che si merita, quindi devo dire, secondo me, che grossissime notizie sono state l'ultima settimana, quindi noi stiamo tirando lungo, cercando di trovare qualcosa di interessante, sì, da dire, stiamo tecnicamente cazzeggiando. L'ho vietata, Salvatore, per questa puntata. Infatti si nota, perché proprio no, cazzo. Esatto. Però era giusto dire due cose prima di pre-season. Sì, comunque, visto che mi hai chiesto che cosa mi aspetto, è la prima di 23. Cioè, è la prima di 23 settimane di football giocata, giusto? Sì, ci sta. No, perfetto. Detta così, ma hai tenuto conto del 23? C'è che c'è la settimana vuota? Ah no, ma c'è il Pro Bowl, si gioca anche il Pro Bowl. Ah, è vero. Sì, è vero, è la prima di 23 settimane di football giocato. Sì, non lo intendevo proprio così, chi ha voluto capire ha capito, tu ti sarai toccato mentre guidi probabilmente. No, meglio che guido, che guardo davanti, piuttosto che toccarmi, perché non si sa mai, quindi... Però sì, adesso lo faccio subito, appena arrivo a casa. Comunque, due cose che... lo so che me l'hai vietato, però l'avevano detto l'altra volta, ma l'appello di Guyon è fissato per il 24 agosto, quindi si saprà se accorceranno la squalifica. Un'ultima cosa, e poi mi quieto, il draft 2016 sarà ancora a Chicago. Ah, è vero. Vabbè, la terra del male. Sì, sarà tra il 28 e il 30. Goodell, poverino, evidentemente vuole dare qualcosa di... importante a Chicago, visto che altrimenti non succede niente di che durante la stagione. E per cui gli dai il draft, insomma, fa sperare i poveri tifosi dei Bears così. Anche se sappiamo che tu in realtà non sei così d'accordo, pensi che, insomma. No, beh, non è che penso, se no, non la vedo semplicemente come Bears con la prima scelta assoluta l'anno prossimo, come in molti lo vedono, voglio dire, cioè, sinceramente non li vedo così pessimi rispetto all'anno scorso, per dire, cioè, li vedo comunque un gradino, anche due gradini sotto di noi, però comunque, cioè, i punti negativi ce l'hanno in difesa, perché davanti, cioè, io di Cutler, per l'amore di Dio, non è, insomma, è un quarterback che è un quarterback dell'NFL, cioè, non è un pagliaccio, cioè, è un pagliaccio, però non è è un pagliaccio che sa giocare a football comunque, è tutto qua, e dopo per l'amore di Dio, sicuramente non saranno loro che dovremo battagliare per vincere la division probabilmente, però non li vedo neanche così come squadra materasso, come vengono dipinti da molte altre parti. Poi tornando al discorso delle 23, cioè, è ovvio che sarebbe da stupidi non dire che non siamo tra i favoriti. Da questo, però, tirarcela sui piedi. Però posso dire una cosa, io ho visto, non so se l'hai vista anche dalla prima di pre-season, quindi quella dei Vikings contro gli Steelers. L'ho visto, sì, qualcosa, non tantissimo, ho visto qualcosa. E ovviamente era la prima di pre-season, non conta niente così. Però Bridgewater quest'anno ha Mike Wallace, giusto? Certo. Che sarebbe una. Sì, non sarebbe uno scarso, diciamo. Sì, diciamo, lanciato sul profondo sarebbe capace di fare dei danni a chiunque, però Bridgewater, vabbè, ha giocato un solo drive, ha fatto 5 su 6, 48 yard, passaggi di 3-4 yards, che è più o meno come giocava l'anno scorso, nel senso non ha particolarmente il braccione, non so se è migliorato in questa No, non off-season, è, però non è sì, mai stato il suo non è forte. esatto, non è mai stato più forte. E per quanto sia comunque una squadra in ascesa, perché è innegabile, sinceramente. Se continuano a giocare così, come approccio intendo ovviamente, non sto prendendo indicazioni da una partita di pre-season, però alla fine Bridgewater è quello dell'anno scorso, passaggini, check down, cose così, non mi Cioè, quest'anno sembra. bisogna vedere cosa gli dà Peterson in più. Bisogna vedere, è un po' un punto interrogativo. Ovviamente parliamo di quello che era il più grande running back, probabilmente degli ultimi 10, 15, 20 anni, possiamo dirlo? Che forse anche più forte di Tomlinson, sinceramente. E sì, hanno Mike Wallace, hanno questo Charles Johnson che ce l'avevamo noi, che poi è andato via, come abbiamo già detto altre volte, ok? A tight end hanno quel Kyle Rudolph che non è per niente scarso, quindi in realtà i dubbi erano nell'offensive line, che Ecco. no, ecco, non so come sarebbero migliorato o meno, sinceramente, ma non mi pare, avranno preso questi grossi, forse un quarto giro, hanno portato a casa, mi pare, però non è che avrebbero preso fenomeni neanche loro là. E per quanto riguarda la difesa, non era niente di speciale, mi pareva, sinceramente. Però ovvio che di loro hanno un buonissimo coaching staff, secondo me, che fa paura. Poi vediamo, secondo me sono una squadra seria, forse è ancora presto quest'anno per darli come tra le possibili vincenti. Però comunque nel giro di magari 2 anni sono da tenere in considerazione anche loro. Vediamo, dei Lions sinceramente non so niente, visto che adesso stiamo parlando un po' male delle rivali di division, però dei Lions hanno perso molto in difesa, mi pare, perché è innegabile. I Lions, secondo me, sono un punto interrogativo, possono essere tanto o niente. Hanno perso, sì, hanno perso su, il giocatore più importante per loro, hanno perso Nick Fairley, che comunque era un buon giocatore. Hanno portato a casa Ngata, che tra l'altro mi pare però sia infortunato, a meno che non abbia ricominciato ad allenarsi da poco, ok? E ritorna, che era Tullock, che si era rotto l'anno scorso, festeggiando il sack su Roger, mi pare, esatto. E davanti si tornano tutti quanti. Sembrerebbe avessero sistemato la linea offensiva. Hanno un interessantissimo running back che ha preso il secondo giro, Abdullah, che di cui se ne parla molto bene. Stavo leggendo gli ultimi giorni. E lì è molto dipenderà anche da Stafford. Sì, l'anno scorso hanno avuto un ottimo record, mi pare fossero 11-5 loro, giusto? Mi pare di sì, però non ci Però, scommetterei. cioè, mi ricordo l'anno scorso vincevano le partite per culo nell'ultimo drive, insomma, non è che fossero una squadra da 11-5, secondo me. Però per dirti, molti episodi sono andati a loro vantaggio. A Dallas l'avevano vinta, hanno avuto un paio di chiamate discutibili alla fine, se no i playoff erano diversi l'anno scorso. Per dirti, avevano battuto Dallas, che secondo me Dallas era una buona squadra comunque. Quindi, vediamo. Probabilmente da domani cominciamo a parlare di football giocato, quindi football, più che di football sui giornali. Sui giornali rosa, per esempio. Sui giornali rosa, esatto. Va bene, dai. Abbiamo sparato le nostre solite stronzate. Speriamo vada bene domani, non il risultato, ma tutto il resto. E basta, cosa dici? Chiudiamo qua? Basta, sì. La prossima puntata promettiamo dei reportage sulla prima partita giocata della stagione. Figata. Finalmente. Finalmente. Grazie per averci ascoltato, se lo fate. E grazie a te, Matte, per aver sparato sempre un piacere insieme a me. Go by go e alla prossima, dai. Ciao. Alla prossima. Ciao, Sal. Must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck. They really, really, really, really, really, really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. The Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck. They really, really, really, really, really, really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now.